Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena oggi è quella di uno dei dominatori delle classifiche degli ultimi mesi, anzi degli ultimi anni. È nato a Roma nel 1966, ma viene identificato da sempre con la città di cui è originario, Cortona, in provincia di Arezzo. Dopo i primi passi come DJ, diventa famoso alla fine degli anni Ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Con gli anni passa dal rap alla world music, al funky, con testi sempre più vicini allo stile dei cantautori italiani. La sua discografia è vasta e tutta di grande successo. Il 2015 è l'anno di Lorenzo, 2015 Cicci e del grande tour che lo ha accompagnato. Una magia che è iniziata con Sabato e non si è ancora conclusa. Partiamo da questo brano, in poi, con la voce in scena di oggi, Lorenzo Cherubini, cioè Jovanotti. Certo, c'è qualcosa di magico, qualcosa di... è come una piccola estate dentro la settimana, no? È come se dura... a un certo punto arriva l'estate, dura un giorno, poi sì, è così, è una giornata meravigliosa. Poi insomma, non sta a me ricordarvi quello che disse il vecchio Giacomino, no? Quando raccontava questo senso dell'attesa che c'è nel sabato, questo tempo sospeso, no? In attesa di una domenica che poi è meno... convincente di quello che uno si aspetta, quindi insomma lui, adesso non voglio fare l'esegesi del sabato del villaggio, però io l'ho ribaltato poi questo concetto qui nella mia canzone, perché la mia canzone poi è anche una linea drammatica al suo interno, no? In qualche modo la mia canzone non voleva essere un pezzo festaiolo e basta, voleva essere un pezzo festaiolo mascherato, anzi voleva essere un pezzo drammatico, realista in qualche modo, mascherato da pezzo dance, perché poi la canzone parla del problema di quando il sabato è tutti i giorni, no? Del problema di quando non c'è il lunedì, di quando magari manca il lavoro, manca quell'idea di noiosa, no? Di doversi svegliare presto la mattina, però poi a lungo, se uno tutte le mattine non ha il problema di svegliarsi presto, questo diventa un problema. E quindi parla di questo, parla un po' del paese, no? È una fotografia attraverso una piccola storia, un piccolo racconto, però è importantissimo che poi il pezzo abbia comunque un DNA dance, perché per me il sabato poi è fondamentalmente quello nella mia vita. I miei ricordi migliori dei miei sabati sono dietro una console a mettere i dischi in discoteca. Grandissimo. Hai detto festaiolo mascherato ed è un po' l'impressione che dai tu. Due anime che convivono, il guardare il mondo che ti ha fatto maturare e il conservare quella cosa lì bellissima che è anche un po' delle nostre generazioni. Sì, sì, che va difesa quella, va difesa come... no, certo, come una forma di vita che è sempre a rischio, no? Beh sì, queste due cose stanno insieme sempre di più e spero poi di riuscire a mantenerle insieme, perché poi sono belle quando sono insieme. Una da sola è vuota e non va da nessuna parte, e l'altra da sola è forse, anzi, è peggio ancora, no? Quindi un filo di malinconia dentro le cose, un filo... questa sensazione che la vita comunque è a un certo punto ti rendi conto che vivere è abbandonare cose, no? Non solamente incontrarle, ma abbandonare cose, abbandonare persone, abbandonare anche stati d'animo, convinzioni spesso, e quello è quasi sempre positivo quando si abbandona una convinzione o un'abitudine. E però qui tenere insieme queste due cose, la musica te lo permette, altre forme forse te lo permettono meno, non lo so, però la musica permette, anzi in particolare la musica permette benissimo proprio di tenere insieme queste due, il tono minore con il ritmo forsennato, no? Cioè queste due cose insieme stanno bene, tutto il funk, tutto il blues e in particolare è molta musica da ballare, tutta la club culture è costruita su tonalità minori. E quindi e nell'immediato tristi, no? Malinconiche e ritmi forti. Se tu metti un ritmo forte su una tonalità maggiore, questa cosa qui alla fine funziona meno, perché è un po' finta. Prima che il vento ci porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti. Respira questa libertà. Ah, ah, ah, ah. L'estate. sempre la libertà. L'estate addosso, un anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora. Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua. Influenze musicali e immaginario. Tu hai questo ruolo importantissimo di veicolo anche di alcune idee nuove, esperimenti nuovi, idee nuove. Ti senti la responsabilità del fatto che in tanti guardino te e dicono: siccome Jovanotti è avanti, scopriamo quello che c'è di nuovo da sapere? Ma io, proprio per non entrare in uno stato d'ansia rispetto a questa cosa qua, in questo disco ho anche cercato di essere classico qua e là nella scrittura delle canzoni, nel senso che non ho fatto un disco elettronico o un disco solamente fatto di frontiere avanzate dal punto di vista musicale. Questo disco è un disco che ha dentro anche tante anime tradizionali quasi, cioè sono proprio delle canzoni che ho scritto con la chitarra e l'ho registrate anche un po' così, senza andare per forza a cercare il vestito all'ultima moda, no? E questo l'ho fatto apposta, proprio per dire: ok, però non è che adesso mi state mettendo un po' d'ansia, non è che non sono mica Bjork, cioè, no, sai che, che deve star lì sempre per forza, che se non c'ha il nuovissimo suono che c'ha solo lei, la gente rimane delusa. Per me le canzoni è anche una cosa che ci incontriamo, si attacca una chitarra e si suona. Poi mi piace anche tutta l'altra parte, però non mi piace solo l'altra parte. Insomma, mi piace l'innovazione, mi interessa l'innovazione, però non è una mania, non è una compulsione, capito, che devo stare per forza lì, su quella frontiera lì. A volte si può stare, la musica a volte può essere anche la rima cuore amore, insomma, no? Anzi, quando ci vuole la rima cuore amore, quando ci vuole. E non c'è nessuna rima migliore di quella quando c'è bisogno. Per cui fare gli strani non è proprio esattamente quello che mi piace fare. Mi piace fare le cose fatte bene. Poi io sono sempre interessato al futuro, molto interessato. Sono molto interessato alle tecnologie, sono molto interessato a interpretare i segni, no? A lasciare segni. Mi piace lasciare segni perché mi piace interpretarli. Mi piace pensare di poter essere un segno perché mi piacciono i segni. Mi piace chi graffia il vero della realtà. Sono cresciuto, per me la cosa che mi, cioè, se penso a uno dei simboli della mia infanzia, che proprio che mi ha formato l'immaginario, è la Zeta di Zorro, no? Che lui la faceva sulla pancia del sergente Garcia, no? Quel segno lì che lui lasciava nel pancione addirittura, no? Oppure con la spada, ta ta ta. Quella cosa è proprio una, se io penso alle immagini che mi hanno formato, quella Z lì è importante, quindi fare un po' Zorro fa parte del mio modo di approcciare le cose. Masticando una gomma al sapore d'infinito che non finisce mai, che non finisce mai, non so se si è capito. Futuro Giova TV, tu fai questo esperimento bellissimo, fighissimo, fai le recensioni, gli show, i backstage, qualcosa di super nuovo, il video degli Immortali con una tecnica di grande creatività. Sì, è una piattaforma che si chiama Interlude, che se andate a vederla su internet, credo sia interlude.com, credo sì. E, non so, per esempio Dylan ha fatto un video di Like a Rolling Stone utilizzando quella tecnica, pure i Coldplay hanno fatto un'altra roba interessante, Kanye West l'ha usata. In Italia non era mai stata usata, quindi è un modo per farla conoscere a un sacco di gente, italiani che non la conoscono, insomma. Ma non credo che sia il futuro di internet quello lì, è semplicemente una giostra, una delle infinite giostre che stanno dentro sto Luna Park che è la rete e che ti permette però, come una bella giostra, di provare un'emozione diversa, per cui tu hai la sensazione, anzi praticamente puoi montare il video in live, in diretta, ti monti il tuo video mentre il video va. Qual è la goduria di questa cosa? Che hai la sensazione di interagire con quello che succede, non è solo una sensazione, la realtà, interagisci con quello che succede, per cui è un po' come permettere tanti punti di vista sulla stessa canzone. È stato un gioco che poi ci è capitato di fare, perché questo video l'abbiamo girato nella mattina di quella che doveva essere la tempesta del millennio a New York, e invece poi questa tempesta non c'è stata, però il sindaco aveva bloccato tutto, quindi noi ne abbiamo approfittato per girare come fossimo Will Smith durante I Am Legend, però senza spendere 10 milioni di dollari, ma grazie. Così si fa. Quindi grazie al sindaco Di Blasio, che ha fatto come Marino a Roma. Marino, ti ricordi che bloccò tutte le scuole e poi non successe niente, no? Il Big Snow e il Big Sì, niente. Poi niente, non è successo niente. Poi secondo me tra un po' non bloccheranno, perché ormai non succede più niente e verrà giù il diluvio universale. Non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro, nemmeno di un minuto, è la regola di questo gioco, puoi tentare di salire di livello, o restare dove sei, come carne da macello, nelle mani del tecnocrate di turno. Non si può tornare indietro, le strade sono piene di detriti, macerie di un passato che un giorno era stato un futuro entusiasmante, quante cose non ci siamo detti, per paura di non essere capiti, troppe volte non ci siamo rivelati, per paura di venire giudicati, attraverso tribunali improvvisati, che condannano già prima di sapere, c'è ancora un margine, per cominciare a vivere, con gli sguardi che si incrociano a metà, nello spazio della dignità. Già qua, per quanto sia normale vederla ritornare, mi illumina di novità, mi dà una possibilità. Hai parlato dell'Italia, della situazione difficile, l'alba è già qua? Ma l'alba intanto è già qua sempre, avviene tutti i giorni, per cui l'alba è uno stato che se ti perdi quella di oggi, comunque hai la fortuna di poter beccare quella di domani. Quindi sì, l'alba è già qua, da un punto di vista concettuale sicuramente è così. Poi è vero anche che c'è un sacco di gente che all'alba dorme e si sveglia che le cose sono già successe e dice mi sono perso l'alba, che era il momento più figo della giornata. La cosa interessante dell'alba è che dura molto poco e che poi in realtà la vivono in pochi, perché l'alba la vive chi va a letto molto tardi e chi si sveglia molto presto. Per cui l'alba, proprio quel momento lì in cui sorge il sole, lo vedono veramente in pochi. Per questo che anche questo potrebbe essere anche tradotto da un punto di vista filosofico, no? In qualche modo è un problema questa cosa qua, perché non ci rendiamo conto che il sole è sorto, no? Che ogni giorno. È proprio da Eccebombo. Però quel film lì ne diceva, no? Di grandi verità. Voci in scena. Torniamo insieme con le nostre voci in scena. Il secondo protagonista di oggi è un cantautore al top da 25 anni. È nato a Pavia nel 1967, è una delle bandiere degli anni 90 grazie al successo degli 883, poi dal 2004 intraprende una carriera da solista diventando uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano, con oltre 8 milioni di album venduti. Nella sua discografia completa ci sono 12 album, 6 raccolte, un live, 4 i libri, 2 le partecipazioni a Sanremo. Il 2015 è l'anno della sua astronave Max, lui è ovviamente Max Pezzali. Era bella questa idea dell'astronave, un po' io sono un grande appassionato di esplorazione spaziale, quindi insomma mi piace tantissimo questa idea dell'uscire dalla contingenza degli affari terrestri e guardare tutto un po' dall'esterno in giusta prospettiva, no? Che credo che sia il significato dell'età. Diventare vecchi obbliga ad allontanare le cose per leggerle, no? Cioè, non dirmelo che comincia ad avere quella sensazione lì, spero che sia solo una sensazione. La presbiopia ci obbliga ad allontanare le cose e quindi le devi vedere per forza nella giusta prospettiva, non puoi più essere troppo coinvolto ed essere troppo all'interno di esse, le devi mettere un po' nella giusta prospettiva. E quindi era bello questo titolo. Grazie a Dio è venerdì, e grazie a Dio sei qui, e cacceremo via i pensieri che torneranno lunedì, ma non pensiamoci e godiamoci ogni istante. Guarda il tergicristallo che va, corre di qua e di là, ogni volta a cancellare la pioggia, ma ogni volta viene giù un'altra goccia. Poi altre mille finché ripasserà, forse siamo anche noi come lui, non ci fermiamo mai, ma poi il vetro si continua a bagnare, quello dietro ha incominciato a suonare, metto in prima se no mi ucciderà. Grazie a Dio è venerdì, e grazie a Dio sei qui, e cancelleremo via i pensieri che torneranno lunedì. Facevo questa riflessione facendomi una full immersion dell'ascolto ripetuto dell'astronave Max. Sei uno stranissimo esemplare di malinconico da sempre, sì. Fin dai primi testi sempre malinconico, però ottimista. Sì, io infatti ho questa caratteristica, io sono malinconico tra l'altro di epoche, cioè sono malinconico a un'età in cui non dovresti essere malinconico. Per esempio io certe volte ci penso e dico gli anni è una canzone che ho scritto nel 1994, quindi avevo sostanzialmente 27 anni e parlavo della malinconia di un tempo che non c'era più, ma di che cacchio stai a parlare? Cioè nel senso sei nel pieno 26, però ero nostalgico dei 16, quindi sono sempre nostalgico di una cosa che non c'è più e di un tempo che è passato, ma credo che sia proprio una caratteristica, è una forma di sofferenza autoinflitta un po' agrodolce, no? Cioè il piacere del ricordare il tempo passato, perché quando è passato, quando la tua esperienza è passata, la memoria tende a togliere gli aspetti negativi, no? E tende a epicizzare quello che è successo. Quindi se sei un amante del racconto, una cosa che diventa epica è già di per sé racconto, e quindi è già possibilità di condivisione di quella cosa. Quando sei nella contemporaneità vedi anche i difetti, no? Quella roba è come quando a me capita ogni tanto, no, di dire poi questi sono discorsi che ripeto, non faccio adesso perché ho 47 anni, li facevo anche a 20, quando c'erano quelli che dicono ma ti ricordi però le automobili di una volta come erano belle, o le motociclette di una volta come erano belle. E tu dici, cavoli, è vero, quando avevo la vecchia Mini, quando avevo quello. Poi se ti capita di riguidarne una oggi, dici, cioè, e non riesci a uscire dal parcheggio perché non hai il servosterzo e non sei più abituato, e non ti rendi conto che è semplicemente perché la memoria ha scremato i ricordi, ha lasciato solo la parte bella poetica e alla fine ha buttato via quella poco pratica, perché se no continuerebbero a fare le macchine di allora se fossero state così fighe. Era il tegolino che ci sembrava grandissimo. Sì, certo, è quella roba lì, no? Però sai, alla fine la malinconia è un aspetto appunto agrodolce, però l'ottimismo è il guardare comunque avanti, il dire ok, è il sapere che è un gioco, che non è il si stava meglio quando si stava peggio. Io sono seriamente convinto che oggi si stia meglio di qualunque altra epoca storica. Sono sempre convinto che è avanti che bisogna guardare, mai indietro, perché la storia è importante per comprendere il nostro presente, per avere coscienza di sé. Ma la nostalgia di tempi che non ci sono più è spesso basata su delle bugie, e spesso è basata sulla paura di diventare vecchi. che poi si sa che non serve a niente, tanto nessuno controllerà. Serve ad azzerare ogni mia probabilità di prendere sonno in questa notte che mi stritola. Non dormirò mai più in questo letto. Curiosa di sapere cosa ne pensi di questo ritorno di quest'anno degli anni 90, perché tra 1992 su Sky, un sacco di speciali. Da un'idea di Stefano Accorsi, peraltro. Hashtag da un'idea di Stefano Accorsi. Tu da 24 anni ci sei sempre stato, e quindi hai vissuto i cambiamenti in maniera naturale. Invece ci sono personaggi che sono tornati grazie a questo revival, anche sonorità. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che alla fine gli anni 90 siano e continuino a essere in realtà il primo decennio del ventunesimo secolo per certi versi, perché il grande cambiamento epocale che oggi è in qualche modo ormai consolidato, quindi penso a internet, alla rivoluzione portata da internet, alla rivoluzione in generale del costume che c'è stata in questo millennio, in realtà è tutto partito un po' dagli anni 90. Cioè gli anni 90 sono... negli anni 90 si vedono i prodromi di quello che sarebbe successo dopo, no? Facci caso... nel 2001 ci sono le Torri Gemelle, ma nel 93 c'è il primo attentato al World Trade Center, in cui ci si accorge di questa presenza dell'Islam radicale, eccetera eccetera. Quindi è il nostro tempo di oggi, però un po' più ingenuo e un po' più ruspante. Non è un'altra epoca, è la stessa epoca, però 1.0. E tu e Mauro 23-24 anni fa dovevate essere quelli che sarebbero durati una sola estate? Assolutamente, noi, ma per certi versi ne sono convinto tuttora. Sono convinto che la mia sia una il mio sia nella musica italiana uno dei ruoli più precari e appesi a un filo che ci siano, perché io continuo a essere un artista, chiamiamolo così, pop, un artista pop in un mondo in cui il pop non esiste tendenzialmente più, no? E quindi è come se io rinnovassi ogni anno una sorta di contratto a termine, cioè, no? Leasing. Sì, e quindi e dico anche per quest'anno l'abbiamo sfangata, cioè nel senso esistiamo ancora, poi l'anno prossimo chi lo sa. Cioè io non ho una collocazione che è come se fossi una figura professionale di un lavoro che non c'è, e quindi si naviga molto a vista. Hai detto artista, per così dire, in un mondo in cui si dicono artisti anche i ragazzini di 16 anni alla prima puntata di un talent show. Ma io sai, sono sempre dell'idea che, ripeto, ma lo pensavo anche prima di essere vecchio, sono convinto che i meriti non puoi attribuirteli da solo, cioè le cariche e i titoli non puoi attribuirteli da solo, no? Cioè è come quello che si fa chiamare dottore dal parcheggiatore, no? E invece non è dottore, no? Dottore, prego, cioè dottore come artista è una cosa che, specialmente se lavori in un settore e se produci con la tua, insomma, con la tua fantasia in un settore tra virgolette evanescente come quello della musica popolare, della musica leggera, è difficile essere chiamati artisti in vita, tra virgolette. Cioè, è un artista se dopo 40 anni dicono: cavoli, vedi, queste cose che ha fatto, che ha scritto, sono entrate nell'immaginario di una nazione, tutte quelle cose lì. Dirsele da vivi è complicato. Cioè, dirsele poi da soli è quantomeno azzardato, ecco. Però tutto questo senza prendersi mai al 100% sul serio, perché come in Superstar uno sguardo alla cameriera si dà sempre. Sempre comunque, perché la cameriera è un aspetto del nostro, cioè è l'aspetto più terreno, no, dell'essere, dello star system. Cioè, paradossalmente ci sono persone che hanno il carisma, che hanno delle doti pazzesche al di fuori di professioni artistiche, diciamo così, o di esibizione davanti a un grande pubblico. In questo caso le cameriere, ma ci sono anche dei barman uomini, maschi, o camerieri maschi, che fanno la fortuna di un locale, perché la gente va lì e dice: ah, che spettacolo. Ma non è solo la bellezza, è proprio il carisma, è riuscire a convincerti anche che quella cosa lì da ordinare è meglio dell'altra, no? E quindi è una forma di espressione di sé molto forte, anche quella. Si può essere delle grandissime star anche dietro al bancone o tra i tavoli di un bar. Ed è tutto per questa puntata. L'appuntamento è per il prossimo Voci in Scena. Ancora un saluto da Marta Cagnola.